la convenzione dei diritti dell'uomo firmata da tutti gli stati, quindi anche dallo Stato italiano, e che ha un capitolo a parte proprio specifico sui detenuti privati della libertà, sulle persone private della libertà a cui bisogna attribuirgli dei diritti, insomma, la violazione di queste norme consente alla Corte Europea di mettere delle grosse multe allo Stato italiano, cosa che ha fatto. Ha messo una grossa multa perché il sovraffollamento era eccessivo, ma anche perché tanti, per la lunghezza della dei processi, per la lungaggine, per il fatto che il governo recente, il governo Berlusconi, aveva messo la prescrizione per i reati dei cosiddetti colletti bianchi troppo breve, e difatti sono tutti scansati il reato facendo prolungare il tempo del processo. E vabbè, poi l'altro elemento forte che criticava era la grande percentuale di persone non ancora condannate, a volte nemmeno in primo grado, che stavano in carcere, i cosiddette persone ritenute quindi dovrebbero essere libere, una percentuale che era arrivata al 40% del totale delle presenze, di fronte a una media europea che è sul 15%. Ecco, tutto questo pacchetto significa una grossa multa e anche delle minacce, che avrebbe raddoppiato, triplicato la multa se entro poco tempo non fosse diminuito tutto questo. Questo ha costretto quindi il governo italiano a fare una serie di provvedimenti, in primo luogo per diminuire il sovraffollamento, cosa che è avvenuta. Attualmente sono circa 53.000 di fronte a 70.000, quindi un bel calo, e anche la legge sulla custodia cautelare, cioè le persone appunto che vanno in carcere, che sono messe in carcere senza aver subito nemmeno il primo grado di processo, quindi una anomalia forte. E questa è stata ristretta molto alla possibilità per il giudice di mandare in galera una persona prima del processo, deve dimostrare, ma con fatti reali, la possibilità di fuga o di inquinamento di prove, e insomma, e quindi la diminuzione del numero delle presenze è forte. Tutti quindi credevano che, a fronte di questo calo, da 69.000 a 53.000, il calo è notevole, sarebbero calati anche i suicidi e le morti in carcere, cosa che non è avvenuta. Ecco, a questo punto si pretenderebbe, non noi, ma il buonsenso pretenderebbe da tutti quelli che hanno urlato che l'unico male del carcere italiano era il sovraffollamento, che insomma facessero un po' autocritica o comunque cambiassero impostazione e analisi, e invece non è stato così. Sta di fatto che appunto i suicidi sono ancora molto alti, molto molto alti, circa 600 negli ultimi 10 anni, i suicidi, un numero enorme di morti in generale, tra mancata assistenza eccetera eccetera, insomma, quindi il carcere uccide spaventosamente. Noi però ci vogliamo soffermare su un caso di una persona, di un ragazzo di 29 anni suicidatosi nel carcere di Pesaro. Ne abbiamo già parlato, appena è avvenuto esattamente un mese fa, un po' meno, il 25 di settembre è successo il fatto, e difatti il 25 di ottobre, ossia ad un mese dal fatto, gli amici, le amiche, i compagni e le compagne di Eneas, questo è il nome del ragazzo che si è suicidato, perlomeno così finora è così, diciamo, gli accertamenti finora non hanno dimostrato nient'altro. Bene, vogliono ricordarlo in maniera forte, però in maniera critica verso il carcere. Perché un ragazzo di 29 anni, che descrivono come un ragazzo pieno di vita, che si era messo in moto, che si metteva in moto in mille iniziative, tutte con alto valore sociale, che aveva un bellissimo rapporto con le altre persone, che era in grado di comunicare molte cose, che si impegnava tantissimo in solidarietà con altre situazioni che avevano bisogno di appoggio, di aiuto, e anche per fare delle iniziative così, appunto, di contenuto sociale. Per esempio, molto si dilettava o si impegnava a fare il teatro con significati sociali. Bene, Eneas è morto. Nessuno pensava, perché un ragazzo pieno di vita, con una gran voglia di vivere, si è suicidato in carcere. Questo perlomeno dicono le laconiche frasi della direzione del carcere. Dicono: un ragazzo di 29 anni si è suicidato nel carcere di Pesaro. Il problema è che le domande che si sono fatte le compagne, i compagni, le amiche e gli amici di Eneas, ed anche tutti noi, sono terribili, e sono quelle che veramente non ti fanno dormire la notte. Perché? Intanto ci si domanda perché Eneas stava in carcere. Ecco, parlare oggi di Eneas, di questo ragazzo, significa parlare della gran parte dei detenuti, perché al di là delle falsa e stupida slogan che hanno in testa le persone, è che si pensa volgarmente che in carcere ci siano i pericolosi delinquenti, gli stupratori, i serial killer, che non è assolutamente vero. La grandissima parte delle presenze in carcere sono quelli che i tecnici chiamano reati bagatellari, cioè le piccole infrazioni alla legge. Per molte di queste, le leggi svuota carcere, fatte appunto sotto la pressione della Corte europea, avevano cercavano di eliminare il carcere. L'hanno eliminato la legge. La legge, appunto, del secondo decreto svuota carcere dice che per pena inferiore a 18 mesi, o quando ti mancano 18 mesi alla fine pena, il resto, quindi quell'anno e mezzo, lo trascorri agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare. Eneas era stato condannato a 12 mesi eppure stava in carcere. Fatto illegale, diranno tutti. Illegale che vuol dire? La legalità è, come sapete, è come la gomma americana, si gira, ma è sempre stato così, fin dal tempo dell'antichità. Chi ha il potere, la legalità la gestisce a suo piacimento. Comunque Eneas stava in carcere. I reati, gravissimi reati di cui si era macchiato, erano aver dichiarato falsa identità e aver fatto resistenza a pubblico ufficiale, reati che commessi nel 2011, quindi anche vecchi, che non prevedono il carcere, sono reati appunto da multa, amministrativi, e comunque non prevedono il carcere, ma eventualmente la pena in misura alternativa. Difatti era stato condannato a 12 mesi. 12 mesi li avrebbe dovuti espiare in misura alternativa, in genere in detenzione domiciliare. Invece stava in carcere. Non solo stava in carcere, la realtà del carcere si è accanita contro Eneas. Allora, è stato intanto ha fatto il giro delle carceri di quell'area lì, dell'area intorno a Pesaro. È andato prima a Urbino, poi ad Ascoli Piceno e infine è tornato a Pesaro. Ad Ascoli Piceno risulta, lo dicono i primi accertamenti, era stato sottoposto a controllo psichiatrico nella infermeria del carcere di Ascoli Piceno. Molte carceri italiane hanno messo da qualche tempo l'infermeria psichiatrica. Questo perché? Perché in carcere, essendo l'obiettivo delle direzioni del ministero e in generale del potere, è quello di addormentare sempre più le persone detenute, perché se dormono non fanno non si rivoltano, non si ribellano, non lottano, non fanno proteste, e quindi si è sviluppato nelle carceri italiane l'uso degli psicofarmaci, cioè i medici prescrivono psicofarmaci ai detenuti che addormentano. Però, che come tutti sanno, gli psicofarmaci sono delle droghe potentissime, quindi creano dipendenza che, se viene smessa improvvisamente, porta dei gravi risultati, per esempio gravi depressioni e altro. Bene, i dati, perlomeno quello che dicono i sindacati delle guardie penitenziarie dopo questo suicidio, veramente che lascia un sacco di interrogativi, avvenuto nel carcere di Pesaro. Bene, i sindacati delle guardie penitenziarie nel carcere di Pesaro dicono era un tossicodipendente. Non è vero, dicono tutti quelli che lo conoscevano. E dicono aveva dei comportamenti strani, difatti era stato assegnato al controllo psichiatrico. Ecco, questo è l'elemento più violento che i regimi, i più barbari criminali, il regime nazista, i regimi fascisti, hanno sempre utilizzato la psichiatria come pena in più, come supplemento di pena, per devastare, annientare le persone. Un anno di galera che non doveva fare, che doveva fare appunto in misura alternativa, e invece non solo ristretto in carcere, ma anche in situazioni, marchiato come tossicodipendente, marchiato come persona non disabile di mente, con difficoltà di comportamenti, quindi da tenere sotto controllo psichiatrico. Bene, questo marchio, questi marchi indelebili, questa violenza spaventosa probabilmente ha fatto crollare una persona che pure amava la vita, voleva continuare a vivere e aveva il più alto rispetto di se stesso e degli altri. Questo è un elemento che è importante parlarne, non solo per rispetto di questa persona che voleva vivere ed è stata assassinata da un sistema sociale, ma non solo dallo Stato. Attenzione, il problema è che lo Stato, quando fa queste cose, condanna, ti impone in testa degli stigmi, degli marchi indelebili, come tossicodipendente, come psichiatrizzato o violento o delinquente eccetera, li mette in nome della società. Quindi opera per conto nostro, questo è il dramma, e di fatti questi elementi sono stati veicolati potentemente con i grossi mezzi che ha a disposizione il potere, con i media, la stampa, soprattutto la televisione, la scuola eccetera eccetera. Queste cose sono una violenza tremenda, la peggior violenza che si possa attuare, quella di imporre a delle persone dei marchi violenti che non è facile togliersi da dosso. Quindi parlare di Eneas, ne parleremo tanto, appunto l'iniziativa di domenica al centro sociale Ex Nihia qui a Roma in via Prenestina 173 servirà per parlare di tutti quelli che stanno in carcere massacrati, violentati e spesso, come è successo, assassinati. Allora, questo è Luantino che la riunione che c'è stata degli amici, delle amiche, dei compagni e delle compagne di Eneas che si sono attivati perché non cada il silenzio omertoso. Quello sta succedendo, quello succede in questo triste paese, soprattutto quando ci sono morti nelle carceri. Bene, l'attivizzazione di queste persone ha creato un movimento, un dibattito interessante che ha permesso di produrre questo volantino. Il carcere continua ad uccidere. Anas Zamzami, per tutti Eneas, un ragazzo di 29 anni, si è suicidato venerdì 25 settembre nel carcere di Pesaro. Questo è il comunicato laconico della casa circondariale di Pesaro, Villa Fastigi, parole con cui i responsabili del carcere pensano di liquidare una giovane vita. Poche parole, troppo poche. Parole povere e opache che non restituiscono nemmeno un po' la vita di un ragazzo, Eneas, né la sua voglia di vivere, né il suo desiderio di costruire sinceri rapporti con altre e altri per impegnarsi in attività efficaci e ricche di contenuti sociali. Eneas voleva vivere, amava vivere, però è morto. La sua vita gli è stata strappata con violenza da un sistema carcerario che annulla e devasta ogni essere umano che rinchiude. Le funzioni del carcere sono quelle, sono invasive e devastanti, impongono al detenuto e alla detenuta una dura ed inutile disciplina che tende a ripiegarlo o a ripiegarla su se stesso. Il carcere impone sofferenza, produce sradicamento e annientamento, costringe la solitudine e la persona detenuta soprattutto in quei difficili momenti in cui si ha più bisogno di una mano, di una carezza, di una vicinanza, di comunicazione, di amore. La funzione del carcere è stamparti in fronte un marchio, uno stigma che ti accompagnerà tutta la vita e che tenterà di emarginarti, di separarti dal resto della società. Un marchio che Eneas percepiva come uno stigma indelebile, e lo era, e gli rendeva difficile pensare a un percorso di vita futuro da realizzare in libertà e con le persone da lui scelte. Eneas rifiutava questo stigma, come tutte e tutti noi. Ma non è facile strapparsi quel marchio e non sempre ci si riesce. A volte prevale lo stigma e ti schiaccia. Ne sono prova i 35 suicidi di quest'anno, finora, e i 590 dal 2005, ossia negli ultimi 10 anni. Perché Eneas era stato rinchiuso in carcere? Condannato a 12 mesi di detenzione con l'accusa di falsa identità e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2011. Le leggi esistenti non prevedono il carcere per queste lievi infrazioni e per condanne inferiori a 18 mesi, ma prevedono misure alternative. Eppure Eneas era ancora in carcere. Perché non era alle misure alternative? Perché gli era stato imposto il marchio di tossicodipendente ed era stato sottoposto al controllo psichiatrico? Queste domande sono pesanti e agitano i nostri sonni. Ci sarà un'inchiesta? Qualche responsabilità salterà fuori? Forse. O forse la nebbia burocratica avvolgerà tutto. Forse non avremmo risposte rapide, ma continueremo a cercarle, anche se fosse necessaria una vita intera. Questo lo dobbiamo a Eneas. Con questo impegno ricambiamo il suo amore. Per ricordare Eneas, per abbracciarlo, per promettere a lui e a tutte le persone recluse che lotteremo senza soste contro il carcere che uccide, ci incontriamo domenica prossima, 25 ottobre, quindi a un mese dalla sua morte, al centro sociale Ex Snia in via Prenestina 173. Il programma della giornata prevede dalle 12 si inizia con il pranzo alla Snia, poi seguiranno letture di testi dal carcere, uno spettacolo teatrale, la giocoleria, perché lui si impegnava in queste attività, teatri e giocoleria. Nella giocoleria sarà fatta a cura di Paolo Pesce Nanna ed il Ponentino Trio, il coro multietnico Romolo Balzani e il laboratorio permanente, e infine ci sarà il dibattito sulla situazione delle galere italiane. sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shovel away. E allora, dicevamo, sono tanti i commenti di chi ha conosciuto Enes che contrastano con questa così visione generica e deviante da parte del carcere di Pesaro, che dice tossicodipendente, disabile, instabile di mente, tutte quelle cavolate. Dice un suo amico, chiunque ha conosciuto Enes sa che non era instabile di mente, né aggressivo, ma piuttosto rapacificante e gentile. Molti di noi avevano condiviso con lui per molto tempo feste in luoghi temporaneamente occupati, aveva cognizione e coscienza politica, era un ragazzo evoluto e si impegnava in tante cose, non era tossicodipendente, certo non nel modo in cui si intende, nella maniera più denigratoria. Tante le difficoltà nella sua vita, ma non aveva perso il sorriso. Ci eravamo un po' distaccati nell'ultimo periodo per i miei motivi, dice questo ragazzo, i suoi per motivi di impegni lavorativi eccetera, ma lo scorso inverno l'avevo incontrato due volte al teatro occupato sulla Tiburtina dove viveva, ho passato tutta la notte con lui e l'ho visto motivato ad occupare, ma soprattutto a vivere. Ci siamo frequentati per anni e non ho mai avuto nulla da ridire su di lui, niente litigi con nessuno, atteggiamenti violenti particolari. Per farsela in breve, in un modo o nell'altro Enes è stato ucciso. Ecco, questo è il dato che esce fuori dalla gran parte di coloro che l'avevano conosciuto e anche da chi ha conosciuto Enes e chi conosce il carcere, ma chi lo conosce da dentro il carcere. Il carcere in realtà uccide anche coloro che ne escono vivi sulle proprie gambe, vivi come si dice, nel senso che portano a casa la pelle, si usa questo termine tra carcerati, cerca di portare a casa la pelle, perché non vuol dire uscirne sani, vuol dire però avere delle buone possibilità per rimettersi in piedi, alzare la schiena e cercare di continuare a vivere, e non è facile. Diciamo, in quel volantino c'è scritto che cosa fa il carcere devasta la persona, la annienta, impone tutta una serie di meccanismi, di rituali, di discipline, del tutto senza nessun motivo reale, apparente, chiaro. Non è che ti dice ti impongo di fare questi movimenti per ottenere questa cosa, no, sono tutto gratuiti, servono solo semplicemente ad ammaestrare la persona ad essere rispondente a un ordine. Questo è il carcere, è nato per questo motivo, è nato per costruire dei così dicevano i dotti che hanno regolato il carcere, nato nel 600 così a fianco dell'industrializzazione, l'abbiamo detto più volte, il carcere è l'altra gamba della modernità. La fabbrica da una parte che ha aumentato la produzione, quindi ha riempito il mondo di oggetti, di merci eccetera, e dall'altra parte il carcere, perché per produrre in fabbrica le merci, gli oggetti necessari o meno necessari, anzi spesso nocivi, inutili, è comunque sempre necessario avere dei lavoratori, dei proletari che rispondano a degli ordini, che accettino degli ordini e senza discuterli, senza porsi il problema di che cosa stiamo facendo, che cosa stiamo producendo, ma accettino così loro quegli ordini che fanno, quella disciplina che fanno, perché in questo modo diventeranno, appunto questa è la definizione del carcere, dei proletari operosi e che non mettono in discussione la proprietà altrui. Questo è il discorso, i senza proprietà che non mettono in discussione la proprietà altrui, questo è il discorso. Il momento dell'industrializzazione, quel 600, 5-600 in realtà avviene questo grosso passaggio in alcuni paesi, prima Inghilterra, Olanda, e poi via via si Stati Uniti, e si espande al resto dei paesi via via, quindi qualche paese come l'Italia lo vedrà successivamente in maniera meno dirompente, perché l'industrializzazione qui è graduale, ma in altri paesi, appunto la Francia, l'Olanda, soprattutto l'Inghilterra, la Germania, è molto più intenso, trasforma completamente l'ambiente, la fabbrica trasforma l'ambiente esistente dove gli umani vivevano, produce la grande urbanizzazione, perché le fabbriche vengono costruite inizialmente nelle grandi città e quindi richiamano un afflusso di persone che, non avendo più niente, essendo state espropriate di tutto, avevano l'unico mezzo di sostentamento era vendere la propria forza lavoro per un salario, e quindi affluiscono laddove c'è la possibilità di lavorare per un salario, ossia dove sono le fabbriche, quindi nelle città. Quindi si creano quei ghetti enormi, quegli enormi quartieri, i famosi quartieri operai, si possono vedere in alcune città tipo Manchester, la stessa Londra, alcuni poi sono stati smantellati quando la cosa è un po' cambiata, quando le fabbriche sono state spostate fuori dalle grandi città, ma recentemente, ma prima erano all'interno delle grandi città, ma anche paesi come la Francia, eccetera, e quindi si creavano questi grossi quartieri operai di persone senza nulla, che non avevano assolutamente nulla ed erano costretti ad andare a vendere la propria forza lavoro per un salario col quale si mantenevano, mangiavano, mettevano insieme il pranzo con la cena e a volte anche un tetto sulla propria testa. Questa è la realtà. Poiché questo processo non era naturale né semplice, perché ci andavano a lavorare in fabbrica perché per prendere un salario, però le condizioni di lavoro lì erano di gran lunga peggiori di oggi, ma proprio spaventosamente. Gli orari erano intorno ai 13 ore di lavoro giornaliero, senza riposo settimanale, poi soltanto con mezza giornata, soltanto la domenica pomeriggio, e poi è diventata solo la domenica. Insomma, comunque orari lunghissimi in ambienti inaccettabili, e quindi molti scappavano e si creò il fenomeno del vagabondaggio. Preferivano vivere di vagabondaggio, andando nei boschi, prendendo il miele. Per esempio l'industria del miele viene da questo grosso gruppo di umani, di persone che praticano il vagabondaggio, e quindi raccolgono i frutti nei boschi, praticano la coltivazione del miele, di altre cose, e poi li scambiano con le persone abitanti nella città e per poter comprare altre cose. Quindi si crea una vera e propria economia del vagabondaggio. Questa cosa non piace agli imprenditori, perché venivano a mancare la forza lavoro che gli permetteva appunto di sfruttare quel lavoro e diventare sempre più ricchi, cioè fare incrementare i capitali investiti in queste fabbriche, in questi opifici. Ecco, quindi a quel punto che cosa fanno? Come fare per prendere queste persone vagabondi che giravano per il paese vivendo di espedienti e farli diventare lavoratori? Nasce il carcere, la casa di lavoro violenta, brutale, che con le buone o con le cattive, spesso con le cattive, le buone non ci sono proprio, non ci hanno proprio pensato le buone, con le cattive imponevano alla gente di accettare quella disciplina, la disciplina del lavoro. E difatti appunto il carcere che cosa produce? Non produce merci, anche se qualche volta il lavoro in carcere è stato un elemento che ogni tanto si è inserito nel mondo penitenziario, producendo le biciclette, in qualche caso piccoli apparecchi venivano costruiti in carcere, ma l'elemento centrale non è quello. Il carcere non serve a fare business, quello comunemente inteso che fa un opificio, un imprenditore, eccetera, ma è il più grande business di questa fase, della fase capitalistica, ossia produrre proletari che accettano di vendere la propria vita, la propria forza lavoro in cambio di un salario, ed essere rispettosi delle regole e rispettosi della proprietà altrui. Questa è la grande scommessa, e il carcere ci riesce. Pensate con quanta violenza ha prodotto questa trasformazione veramente antropologica, perché gli umani non erano abituati, da quando sono comparsi sulla terra, a stare 10-12 ore rinchiusi in un posto brutto, malsano, poi tornare a casa, mangiare, dormire e la mattina alle 5 risvegliarsi e fare la stessa cosa 365 giorni l'anno. Non era umana, questa cosa non è alla portata degli umani, e quindi hanno cercato di sono stati costretti con la violenza ad accettare questa vita, che negli anni, nei decenni e nei secoli poi è diventato un modus vivendi. Con la violenza ci hanno fatto diventare quello che loro volevano, e ci sono riusciti. Però il carcere è questo. Poi è cambiato il carcere, è cambiata la fabbrica, perché ci sono stati i movimenti di lotta, i lavoratori sono organizzati, hanno fatto lotte, violenze, sabotaggio, tutto quello che dovevano fare, e hanno cambiato un po', in qualche caso hanno anche rotto questa disciplina capitalistica. Però laddove esiste la fabbrica e il carcere ancora hanno questo elemento. La fabbrica è cambiata, oggi può essere anche un ufficio di call center, è la stessa cosa, può essere anche un ufficio di progettazione di internet, no? di software, ma è sempre la stessa cosa, sempre fabbrica, cioè luogo dove si produce in cambio di un salario, e dall'altra parte il carcere che controlla quelle persone che non accettano quella disciplina, controlla e impone che ci sia il cambiamento di quella situazione. Questo è il carcere, la rottura, quindi, come dire, questo binomio carcere e fabbrica non accettano comportamenti diversi da quelli voluti, quindi tutte le persone un po' diverse che preferivano appunto fare oggi non c'è un movimento del vagabondaggio, non c'è più il fenomeno del vagabondaggio, ci sono però dei singoli soggetti, piccole unità, gruppi di persone che lo praticano, i senza casa, gli homeless eccetera, fanno questo, nelle città lo fanno, vivono d'espedienti, e chiaramente queste cose vanno represse duramente, perché perché tutti quanti debbano diventare forza lavoro. Poi è ovvio che spesso le fabbriche, perché ci sono le crisi, le disoccupazioni eccetera, quindi non possono assorbire tutti, e li ributtano fuori ovviamente vivendo così ai margini, e queste persone marginalizzate, buttate fuori dalla struttura, diciamo, salariale della fabbrica, devono vivere di espedienti, e lì il carcere di nuovo interviene. Quello dice: ma non c'è alternativa. Molti che stanno in carcere dice: tu perché hai rubato? Perché non trovavo lavoro. Mi dispiace, devi metterti lì, aspettare pazientemente che arrivi un lavoro. Dice: nel frattempo come mangi? Vai a mangiare alle mense delle assistenze. Difatti nasce la terza gamba, però poi non è una gamba, ma diciamo di accompagnamento alla struttura carceraria, e sono tutti meccanismi assistenziali, proprio perché appunto la fabbrica ha bisogno di operai e il carcere li produce, operai disciplinati, ossequiosi, operosi, però a volte non riesce a assorbirli, quindi crea la stessa struttura, diciamo, del capitalismo, della produzione, crea fuoriuscite, cioè disoccupati, e questi devono vivere, sono le classi emarginate per le quali c'è il carcere, ma non è che hanno alternativa, perché il lavoro lo cercano ma non lo trovano, se anche che non è quello il problema. E allora non ha importanza, però se tu vivi in maniera diversa dalla disciplina imposta dal regime di fabbrica, è chiaro che vieni buttato in carcere, perché devi abituarti a fare quello che ancora non, che anche non c'è spazio per farla, ma quando servirà sappiamo che se ti prendiamo sei disciplinato a fare quel lavoro. Questo è il meccanismo. Quindi il carcere continua a avere, al carcere poi si sono aggiunti recentemente i CIE, perché questa forza lavoro proveniente da fuori, dall'immigrazione, è venuta, diciamo, come dire, ad accompagnarsi a quella esistente nei territori, che è sempre stata in alcuni paesi come l'America, un paese di immigrazione, questo processo di immigrazione ha sempre avuto una regolamentazione violenta tramite strutture reclusive, carcere, campi di internamento, tutto. I CIE sono il carcere di oggi, che tenta di usare lo stesso meccanismo di violenta disciplinizzazione e regolamentazione di questa forza lavoro immigrata. Quella che serve tengono, l'altra la rispediscono, dice: voi verrete quando ne avremo bisogno. Il meccanismo è questo. Ora, questa situazione qui, estremamente violenta, devasta le persone, alcuni li devasta di più, e quindi perdono la forza di continuare a vivere sapendo che non c'è margine, o accetti appunto di diventare una come dire, un soggetto disciplinato utile ad essere sfruttato nel posto di lavoro, oppure la vita tua passerà da un carcere all'altro, e questo crea la devastazione che può produrre e produce spesso anche diciamo fenomeni di così talmente forte la depressione che ci si può morire. Purtroppo, come dicevamo, nonostante appunto la diminuzione del sovraffollamento, casi di suicidi, tentati suicidi, spesso a volte non riusciti, per fortuna però i detenuti che cercano di suicidarsi sono tanti. Questa settimana sono tantissimi, per esempio al carcere di Terni, un carcere durissimo tra l'altro, un detenuto tenta il suicidio in carcere, salvato all'ultimo momento. Un detenuto è morto nel rione Gazzi, e anche qui polemiche, inchieste. Poi c'è una polemica tra sulla morte di un detenuto spentoci in cella solo e malato, al quale non era stato, era malato da tempo, si era aggravato, aveva questo appunto a Messina nel rione Gazzi dove c'è il carcere, e dove da tempo anche i radicali dicono che in quel carcere di Messina venga riconosciuto il garante dei diritti del detenuto, che non c'è, perché appunto ci sono tanti casi di persone che segnalano patologie brutte, pesanti, ma non vengono portate all'ospedale, nemmeno che meno visitate come si deve. E in questo caso questo ragazzo è morto, e quindi anche qui, perché non curato, quindi ignorato completamente, spento in cella, solo e malato. C'è stata una polemica tra gli avvocati, la Camera Penale di Messina, quindi che ha preso in carico questo problema, che ha criticato la magistratura di sorveglianza, perché dice: come mai non l'avete, è la magistratura di sorveglianza che in caso di un detenuto che segnala patologie gravi deve stabilire il ricovero ospedaliero, e non l'ha fatto, e quindi c'è un meccanismo di dire come mai è successa questa cosa, e quindi vabbè, questa polemica durerà un sacco, poi si spengerà nel nulla. Poi un altro, qui nel carcere di Biella, un detenuto appicca il fuoco alla cella per protesta, e di nuovo anche qui caos, perché appiccate il fuoco, quando una persona arriva a quel punto a rischiare di morire perché la cella è chiusa, appicchi il fuoco, è chiaro, il primo che muori sei tu, perché anche qui, perché c'era stato, l'avevano trasferito di forza da un piano all'altro, perché c'era stata una scaramuccia, una scazzottatura con altri detenuti, e quindi per separarli il direttore aveva trasferito, e questo per segnalare, e questo, i meccanismi sono tanti. Poi c'è l'Espresso da due settimane, quello di questa settimana e quella settimana scorsa, parla dei pestaggi violentissimi proprio nel carcere di Parma. Il carcere di Parma è un carcere diciamo ad alta sorveglianza, dove ci stanno anche detenuti in 41 bis in alta sorveglianza, dove gli agenti, perlomeno c'è una squadretta di picchiatori di guardie, che veramente le fa menano in modo più duro, più tremendo, creando anche diciamo delle situazioni gravi. addirittura appunto se ne è occupato l'Espresso, che fa due servizi sempre sul carcere di Parma, in questo, quello di questa settimana e quello della settimana scorsa. È pesantissima questa, è violentissima questa storia. Insomma, queste sono le situazioni. Il problema è che sì, certo, ci saranno le inchieste, mettiamo in moto gli avvocati, in qualche caso si danno da fare, perché l'Unione delle Camere Penali, che è l'associazione che lega tutti gli avvocati penalisti d'Italia, che poi ha ogni reparto in ogni regione, però appunto ha messo su da qualche tempo un osservatorio sul sistema carcerario, e va bene questa cosa qui, siamo contenti perché loro possono entrare in carcere, quindi possono segnalare tante cose. Sono una potenza, perché l'Unione Camere Penali, cioè l'insieme degli avvocati, sono una potenza anche economica, e quindi a volte segnalano delle scorrettezze, delle cose. Sono i loro assistiti, le persone che stanno in carcere, quindi hanno anche interesse a difendere, per far vedere che insomma l'avvocato conta qualcosa. E allora la questione è che cosa? È che queste vicende però appunto, come vedete, nonostante si muovano pezzi grossi, appunto l'Unione Camere Penali da un'altra parte, la magistratura dall'altra parte, non è che riesce a muovere, a volte si muove per qualcuno, ma non riesce a muovere. Il problema è che dentro le carceri si sente il rapporto di forza molto svantaggiato da parte dei detenuti e di chi li sostiene, e quindi di questo le guardie se ne approfittano per fare le loro porcherie. Lì dentro vale il rapporto di forza secco secco, quello che vale anche fuori, ma fuori è attutito da una serie di chiacchiere, contro chiacchiere, cose. Lì dentro in carcere è molto secco. Se c'è il rapporto di forza, il detenuto vive meglio; se non c'è il rapporto di forza, il detenuto viene massacrato. Tu che hai sbagliato tutto e dall'altra parte ti sei schierato, tu che ti presti al gioco di chi in galera ci ha condannato, in nome di una paga ti sei venduto e non hai capito che io a 6 anni son condannato, tu per la vita ti sei fottuto. Nascosto in una divisa, ti sei convinto bene o male che col tuo mitra salvi l'uomo per bene dal criminale. Guardati un poco attorno, se non sei cieco t'accorgerai che il criminale l'hai alle spalle e non è quello a cui sparerai. Ci hanno chiusi qua dentro perché ci scanniamo come cani, proletari col mitra e proletari. Così potranno dire che noi siamo bestie e voi siete eroi, e intanto per loro tutto continua come non fossimo nati mai. Piantala di far finta di esser convinto di quel che fai, gente morta di fame per un servo non l'ha fatto mai. Se prendi il mitra in mano puntalo addosso alla canaglia vera ed avrei tolto di mezzo il motivo per cui esiste la galera. Allora, torniamo, siamo e rimaniamo nelle questioni carcerarie. Dunque, la scuola in carcere. Bene, sì, anche qui tante chiacchiere, tanti documenti, convegni, dibattiti. Sta di fatto che pochi ne hanno parlato, anzi quasi nessuno, se non appunto gli addetti ai lavori, cioè gli insegnanti che vanno a fare la loro attività in carcere, perché la cosiddetta buona scuola, che è una scuola orribile che mai questo paese ha conosciuto e purtroppo adesso, se non si riesce a togliere di mezzo, la conoscerà, ha tolto un sacco di soldi alla scuola, perché il problema centrale è risparmiare i soldi sulla pelle di quelli che diciamo della scuola usufruiscono. E quindi ha tolto soldi e chi ne viene a, diciamo, a soffrire di più è proprio il carcere, perché il carcere viveva di piccoli come dire, quantità di soldi per poter spostare gli insegnanti da una scuola, da un istituto al carcere più vicino e fare il suo corso, il corso che pure secondo le leggi dovrebbero fare in carcere dovrebbero esistere le scuole, perlomeno con alto e basso queste cose, con le lotte, con le proteste sono poi esistite, ma invece la nuova normativa della cosiddetta buona scuola di Renzi crea una difficoltà, a parte che qui c'è questo nuovo meccanismo, hanno creato un nuovo meccanismo che è pieno di incertezze, di competenze tra questi gruppi, diciamo, di prestazioni per i ristretti, per chi sta dentro il carcere, e i dirigenti delle scuole secondarie. Insomma, sta di fatto che secondo quanto risulta attualmente molte carceri non potranno più dovranno interrompere le attività scolastiche che avevano messo in moto, in movimento. Questa è la cosiddetta buona scuola in carcere. Considerate che, la cosa non stupisce nessuno, che il diritto allo studio anche in carcere è un dettato costituzionale, non è stato ovviamente ottenuto, cioè è scritto sulla Costituzione, quella del 46. Vabbè, ovviamente non le hanno messe perché non volevano spendere i soldi, e grazie alle lotte, alle proteste dei detenuti poi sono entrate. Quindi, come vedete, anche la Costituzione a volte, per farla applicare, quelle poche cose positive che ci sono, ci vuole insomma un po' di forza. Adesso le stanno togliendo, nonostante la Costituzione sta sempre lì, lo dica espressamente che il detenuto ha diritto a poter fare qualunque corso di studio, ovviamente per risparmiare soldi non ci sono più, e dunque sarà un bel problema, sarà un brutto problema. E dunque, interrompo purtroppo questo bellissimo blues, ma il tempo stringe, sono le 15:57, e dunque, come avevamo detto altre volte, anche negli Stati Uniti d'America si cominciano a preoccupare perché c'è troppa gente in carcere negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti d'America, sapete, gli Stati Uniti d'America ha il 5% della popolazione mondiale, la quantità della popolazione degli Stati Uniti è il 5% della popolazione mondiale, ma ha il 25% della popolazione carceraria di tutto il mondo. Quindi, come vedete, diciamo, circa 5 milioni, oltre 5 milioni di persone sottoposte al controllo penale, 2 milioni e 3, 2 milioni e 4 totalmente in carcere, altrettanti, quasi 3 milioni in misura alternativa, quindi in tutto sfiorano i 6 milioni di persone in carcere, il 25%, un quarto dei carcerati di tutto il mondo, pensate che bel record. Ora, questa cosa perché se ne sono occupati? Sono diventati come dire, garantisti? Può darsi, però l'elemento che spicca in questi ragionamenti che fanno Obama, ma prima di lui anche la Hillary Clinton, e prima di lui ancora alcuni professori, diciamo, di criminologia, così insomma, il problema che c'entrano molto è il costo. Quanto costa tutta questa massa di persone incarcerate in America? Costa 800 miliardi di dollari. 800 miliardi di dollari. Non è uno scherzo per mantenere questa quantità enorme di persone in carcere. E quindi Obama dice: no, è troppo, bisogna spese, bisogna ridurre. Ovviamente poi per dire, diciamo, sottolineare questa decisione, dice: bisogna fare in modo che le condanne siano più proporzionali all'entità del fatto criminoso, perché in effetti pare che in America non pare così, insomma lui dice pare che, ma in realtà noi siamo convinti che dagli anni 90, che erano all'inizio degli anni 90 erano 400.000, poi negli anni 90 sono diventati 500.000, adesso 2.500.000 quelli dentro le galere. E questa crescita, che è successo? Sono aumentati i reati, ma anche i reati sono diminuiti. E allora perché? Perché appunto a parità di fatti criminosi cosiddetti, ma quelli piccoli, vengono sbattuti in carcere i cosiddetti piccoli delinquenti. È la stessa cosa in Italia, lì è più massificato, però insomma, quindi la punizione non rispecchia, lo dice Obama, la punizione, cioè la sanzione, la condanna, non rispecchia il crimine commesso, è sovradimensionata. Perché? Perché devono rassicurare le persone.